Rock FM. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La tua colazione rock. Quinta puntata della ripresa. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Momento uccellini alle 8 spaccate per coloro che hanno il buon cuore di puntare la sveglia su Rock FM. Andiamo a dedicare un brano della nostra riserva particolare in maniera un po' scaramantica per il reprise di Pane, Burro, Rock and Roll. Abbiamo deciso da lunedì di farvi svegliare con i Beatles. Idea non male, no? Credo, spero abbiate apprezzato. Here comes the sun. Signore e signori, buona giornata. È un nuovo venerdì da affrontare a denti stretti. E via. Arriviamo! Riserva di Pane, Burro, Rock and Roll per la sveglia di questa prima settimana. Here Comes the Sun dal meraviglioso Abbey Road, i Beatles. Oh, che bel risveglio anche per quest'oggi. Chissà se c'è veramente qualcuno che tutti e cinque i giorni si è svegliato con Here Comes the Sun, e se ci fosse vorrei sapere anche se ha fatto effetto la cosa, se è servita oppure no. Vi ricordo spesso e volentieri il 335-100-7777, poi non vi saluto mai, quindi vado a ringraziare Graziano. Le code a Milano sono sempre uguali, per fortuna vale anche per voi, non cambiate mai, sì. Nel senso che scemi eravamo e scemi lo restiamo. Il radioascoltatore che poco fa ha mandato una freddura che non rileggerò ha... ragazzi, sapete, scusate se, ecco, come al solito mi faccio catturare delle... È pieno di gente che scende il cane quest'oggi. Cos'è, venerdì è la festa del cane che scende? Non so, ce n'è una marea anche lì, un altro paio. Va bene, torno all'amico della freddura che ne ha sia rispedita un'altra, perché si vuole male, e sia ricevuto un commento positivo. È Miss Misirlu, spero di averlo letto giusto, che diceva: a chi sta tornando a casa adesso da una notte brava, vi odio. A me la freddura è piaciuta. Datemi il numero del pazzo. guarda, te ne leggo un'altra allora, molto volentieri. Dracula a testa in giù, il conte alla rovescia. E però è forte questa. Bravo, bravo Gian. Rock and roll all night and party every day. E allora, la festa di pane, burro e rock and roll prosegue così. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. You keep on saying you'll be mine. Tracu, tracu, tracu, prosegue la mattina di pane, burro, rock and roll. Ta-da-da! Con l'Ariele Spadino e Freak Anton. Ta-da-da! Tracu, tracu, io le faccio la batteria. Tracu, tracu, ta-da-da-da-da-da-da. No, faccio la chitarra. Ma perché anziché improvvisare una canzone non improvvisiamo un bel tanti auguri? Pr-pum. A chi tanti amanti? No, io andavo sulla Carrà. Ma era un'altra cosa, era solo per porgerle il destro ai compleanni del giorno. Ebbene sì, lo raccolgo al volo, come disse il castratore di canguri, raccolgo la palla al volo per ricordarle i nati del 7 non settembre. Non vedo l'ora. Partiamo con un annuncio storico. Nel 1533, alla faccia, il 7 settembre, nacque la regina Elisabetta, la number one d'Inghilterra. Morirà nel 1603. Nasceva nel 1936, invece, il musicista Buddy Holly. Mitico Buddy Holly! Tanti auguri a Dario Argento, Mr. Splatter italiano, sceneggiatore, grande regista italiano e maestro dell'horror nostrano, nato il 7 settembre 1940. Tanti auguri, Dario Argento. E chiudiamo citando Mike Bongiorno con un colpo di scena. Pensavamo di averlo solo noi, un freak, e invece... E invece, ahimè, devo riconoscerlo, sono costretto ad ammetterlo, esiste un altro freak che, detto fra noi, dovrò eliminare. Il compleanno, nasceva il 7 settembre del 1974, Mario Frick di cognome, tra l'altro, proprio, non di soprannome. Esatto, Frick di cognome, Mario qua? Di nome, che fa calciatore, Mario? Mi lancio, sì. Guardi che mi inciampo, calciatore, calciatore Liechtenstein. Non si inciampi, calciatore del Liechtenstein. Aspetti, ci riprovo. L'ha già presa troppo semplice. Esatto, ci riprovo a dirlo, Liechtensteinese. No, Liechtensteinese. Liechtensteinese. Il grande Mario Frick. Mi viene il vomito. No, non vomiti. Sforzo. Burro e rock and roll, già in clima di weekend, se non fosse il solito sguardo torvo di Roberto. Quando fa così c'è di mezzo una brutta ricorrenza. Lei già mi capisce. Lo so, il 7 di settembre. Lei già mi intuisce. Chi andiamo a ricordare quest'oggi? Dobbiamo farlo perché un collega, grandissimo musicista, ha inventato nel suo genere un modo di suonare, la doppia cassa della batteria. No! Ce l'ha avuto per primo lui. È Keith Moon. Keith Moon. Moriva nel 1978, oggi. Esatto. Indimenticato batterista degli U. Posso dare sfoggio della mia perfezione nella pronuncia? Keith Moon. Lei mi stupisce ogni giorno di più. Keith Moon. Anch'io sono soddisfatto. Come vogliamo, come vogliamo ricordarlo? È come un... testa calda. Una testa calda. Mattarello. Mattarello mattacchione, ma grande batterista, uomo di grande generosità, tra l'altro. Posso dirgliene una? Grande interprete anche cinematografico, perché in Tommy fa proprio perfettamente la parte del cugino. Vecchietto, del cugino, vecchietto un po' perverso. Tra le varie follie che si ricordano di Keith Moon, la migliore è quando riempì un tamburo di polvere da sparo, cosa che potrebbe fare anche lei al prossimo concerto degli Skiantos. È un'ottima idea. Sarebbe dovuto esplodere alla fine di My Generation, scoppiò accidentalmente prima, stordendo il chitarrista Pete, e lui invece rimase ferito a una gamba a causa sgretolamento di un piatto. Quindi è meglio se non lo fa, non riempia la gran cassa di nessuno. Beh, con della polvere da sparo. Ragazzi, ma dico, un piatto che si sgretola, ma voglio dire che, e poi ti arriva su una gamba, è una roba micidiale. Credo che abbia l'effetto di alcuni coltelli sommati assieme. Questo pazzo di Keith Moon si presentava alle feste degli amici musicisti Vips e parcheggiava regolarmente l'automobile, vuoi la Rolls Royce di turno, vuoi la Cadillac del momento, nella piscina della villa del VIP malcapitato, insomma, dell'ospite, nella piscina dell'ospite. Lui parcheggiava la sua automobile sempre nella piscina dell'ospite, che poi doveva chiamare appunto un argano, un carro attrezzi per tirarla fuori. Era doveroso ricordare Keith Moon. E tra l'altro segnaliamo, tra le varie follie di Keith, anche l'abbandono da vera rockstar. Stava seguendo un trattamento contro la dipendenza da alcol e morì una notte ingerendo troppe pastiglie contro la dipendenza da alcol. Un matto. Un pazzo. Era sempre troppo per lui, era sempre troppo poco. Viva e i troppi. Esagerava. Viva chi esagera. Evviva, esageriamo, ma con giudizio, ragazzi, con giudizio. Put us to town. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. If I die before I get old. Talking about my generation. La Evergreen, la sempreverde My Generation, da Who. 8 e 21 minuti primi. Questo si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. Siete sintonizzati su Rock FM. Era doveroso, tra le ricorrenze di questo 7 di settembre, ricordare anche, tra l'altro ve lo segnalo, uno dei miei artisti preferiti in generale, tra i primi tre della storia del rock. Io ci metto anche Kate Moon. Anche se, come al solito, leggendo i vostri messaggi, testo il polso anche dell'umore dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici, succede questo, è statisticamente provato, i programmi radiofonici in questa fascia della giornata hanno un ascolto che viene denominato, se non ricordo male, frammentato. Io non che sto mai dietro a queste cose qui, però è vero, solitamente ascoltate dei pezzi di trasmissione, perché poi iniziate a lavorare, perché poi portate, quindi non riuscite a ascoltarla tutta. Nella primissima parte di quest'oggi abbiamo fatto come sempre l'almanacco e abbiamo ricordato, tra le varie ricorrenze del 7 di settembre, il compleanno del Genoa Calcio, dico bene? Sembra della prima squadra di calcio italiana. In tantissimi da Genova state continuando a scrivere: perché non lo ricordate? Lo avevamo già fatto. È il compleanno del Grifone, che compie 114 anni. Insomma, lo ridico anche adesso, fidatevi, l'avevamo già detto anche prima, ma però si sente che ci tenete particolarmente, insomma, quindi mi fa piacere ricordarlo di nuovo. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con immancabile, con il test attitudinale, come ogni giorno verso le 8:30. Una domanda, tre risposte plausibili. Fate la vostra scelta e scoprite se siete dei veri rocker oppure no, e soprattutto collezionate punti per la vostra patente da vero rocker, uno degli altri tormentoni della ripresa di Pane, Burro e Rock and Roll. Ma queste patenti da vero rocker esisteranno oppure no? Sì, sì, ve l'ho promesso. Non vi fidate dell'Ariele? Un po' fate bene a non fidarvi, ma sulla patente da vero rocker ve lo prometto, arriverà prima che voi possiate immaginarlo. Intanto Doors! You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Apice, mi permetta di dirlo, della nostra trasmissione, non solo la presenza di Roberto Fricantoni, sempre qui nei nostri studi. Grazie. Ma l'appuntamento forse con il test attitudinale sta sopra di lei, da tanto importanza. Lo ammetto, lo riconosco, è lo zenith della trasmissione. Sancta Santoro mi aveva un po' scassato i maroni, zenith invece effettivamente sarà il nuovo aggettivo da aggiungere al test attitudinale. Mi permetta di consigliarle di parlare diretto e di non usare queste metafore. Lo farò, come farò anche la domanda di quest'oggi, che riguarda una band caposaldo della storia del rock, Led Zeppelin. I Led Zeppelin sono resti, si sa, a concedere l'utilizzo di loro canzoni per le colonne sonore dei film. E non hanno tutti i torti. E recentemente però Jack Black, nel suo School of Rock, è riuscito a ottenere il permesso di utilizzare Immigrant Song. Sapreste per caso dirci come ha fatto Jack Black a prendersi i favori dei Led Zeppelin? Cosa peraltro tutt'altro che facile. Allora, radioascoltatori e radioascoltatrici, prestateci le vostre orecchie. Tre ipotesi. La prima: Mr. Jack Black è riuscito ad ottenere un assegno di $10,000 dalla Paramount Pictures per ottenere il permesso a segno che evidentemente ha girato il Led Zeppelin. Direi di sì. Buon modo per prendere una canzone. Ma che sia questa? Passiamo alla due. Passiamo alla seconda opzione. Il regista ha filmato una richiesta da parte di Jack Black davanti a 1000 fan urlanti, implorando la band delle Zeppelin di permettere alla produzione di usare la canzone Immigrant Song nel film. Quindi va sulla richiesta patetica. Potrebbe essere. Ma sì. Passiamo alla 3. Può essere un'idea, insomma. Ultima ipotesi. Terza ed ultima ipotesi. Jack Black invitò Robert Plant ad una partita di poker nella quale chiedeva al cantante dei Led Zeppelin, in caso di sconfitta, di permettergli l'utilizzo della canzone, appunto Immigrant Song. La partita fu vinta da Black con un poker di assi, grazie, si è poi saputo, ad un mazzo truccato. Ah, quel furbetto di Black! E allora qual è l'ipotesi esatta? La 1, la 2 o la 3? La soluzione? Come al solito. A dopo. Ve la diciamo tra poco. Poco. La so.